Sexta, viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder. Bentornato a tutti i nostri ascoltatori di Radio Next. Oggi parliamo di dati con Alessandro La Volpe, Vice President IBM Cloud and Cognitive Italia, a cui diamo il benvenuto ai nostri microfoni. Buongiorno Alessandro. Buongiorno Pepe e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora Alessandro, in questo momento stiamo assistendo a un proliferare di dati e di informazioni che sicuramente non aiutano il processo decisionale, anche e soprattutto delle aziende alle quali è richiesto di rimettere in moto il motore economico. Questi dati ovviamente possono essere fondamentali nelle scelte imprenditoriali. Allora, qual è la modalità corretta per gestirli in questo momento storico in cui l'emergenza virus ci sta un po' paralizzando nelle scelte decisionali? I dati sono, li possiamo considerare ormai da tempo, anche pre-emergenza, come una vera e propria risorsa naturale. Uh-huh. Definiamolo il nuovo petrolio. Quindi potenzialmente la base principale di vantaggio competitivo per ciascuna azienda, certo, oltre ovviamente alle proprie competenze, alla propria base clienti, al proprio savoir-faire. Uh-huh. Dato come vantaggio competitivo, diventa ancora più importante in un momento in cui ci aspettiamo che sarà necessaria una nuova ripartenza. Mm-hmm. Allora, da dove ripartire? Il dato ha senso e valore, vista la quantità, la proliferazione di cui si parlava, ha senso solo se l'imprenditore, l'azienda, il manager incomincia a darsi un fine, cioè qual è il fine di business per il quale vogliamo utilizzare i dati. E quindi e da lì si parte sempre dalle iniziative imprenditoriali. A partire da questo, quali sono i dati certo, all'interno dell'azienda o dati all'esterno, che cosa vogliamo fare con questi dati, perché ci sono due possibilità molto sì, frequenti: da un lato pochissimi dati disponibili rispetto a quello che si vuole fare, oppure troppi dati, mm-hmm, oppure ci sono ma non so come raggiungerli. Questo è una possibilità su cui bisogna ragionare, ma bisogna ragionare in funzione di un fine di business. Sì. A partire da questo ci si inizia a porre le altre domande. Ho le competenze per affrontare questo percorso nell'utilizzo dei dati con una finalità di business? E il modo in cui lo sto utilizzando è il modo più corretto e posso raccontarlo? Sono in grado di raccontare che utilizzo farò dei dati ai miei clienti, al mercato, agli analisti di mercato, a certo, chi osserva come agisco come azienda? Alessandro, le grandi aziende, ma anche le medie, hanno a disposizione dati strutturati, più o meno strutturati, ed è un po' forse una delle due prospettive che ci davi, il troppi dati da gestire. Ma per la piccola azienda e anche per tante medie aziende che invece magari i dati, ahimè, continuano o li hanno raccolti su carta o su sistemi non condivisi, come si fa in questo momento, magari dove si ha anche un pochino più di tempo perché, ahimè, il lavoro è sceso e quindi c'è un po' più di tempo per rimettere a posto quello che abbiamo in casa? Ecco, come si fa a strutturare questi dati, a dargli un senso? Bisogna ripartire da un concetto di modernizzazione della piattaforma dei dati. Ok. Questo è il punto di partenza, serve un'architettura dei dati. Diciamo che senza architettura dei dati non si può arrivare al fine. Il fine è quello di avere un'intelligenza artificiale che aiuti in un percorso di estrazione di valore, sì, di business dal dato stesso. Sì, sì. Allora bisogna ripartire da un'architettura. Architettura cosa vuol dire? Un'architettura che consente esattamente di fare quello che accennavi tu, che è fondamentale. Da una parte utilizzare i dati strutturati all'interno dell'azienda, sì, e oggi in qualunque azienda, anche quelle più piccole, ce n'è una quantità enorme rispetto a quello che viene utilizzato e sfruttato in maniera per estrarre informazione e per estrarre valore. Sì. A fianco di questi dati strutturati poter mettere tutte le tipologie di dati non strutturati, anche qui sia all'interno dell'azienda, ce ne sono tanti, ne hai accennato alcune tipologie tu, sia esterni. La proliferazione di dati esterni non strutturati in tempo reale è fondamentale come elemento da cui partire per capire, ok, anche di questi dati, quali sono quelli che mi servono, quelli come li metto insieme. Certo. E quindi serve una piattaforma, un'architettura dati che sia agile, che sia aperta, proprio per poter considerare dati di qualunque natura, che sia flessibile e che sia attestata su un paradigma che è quello di un cloud ibrido, aperto e veramente disponibile per estrarre il massimo del valore dal dato. Anche perché il dato in cloud è accessibile da tutti i dipendenti da postazione remota se stanno lavorando da casa, giusto Alessandro? Questo è un punto che vale da parecchio tempo, ma in questo momento ce ne rendiamo tutti conto dell'importanza di certo. poter accedere a dati, ad applicazioni, a processi di business remotamente. Tutti quanti ci siamo riorganizzati, se non eravamo già pronti, per poter lavorare da casa, ma poter lavorare su dati al giorno d'oggi, in questo periodo, probabilmente per il futuro, vuol dire poterli prendere dove sono e quindi accedere in modo sicuro, utilizzarli dal cloud, che è la possibilità di erogazione più ampia che c'è oggi, certo. Il cloud che però deve essere aperto, mm-hmm. che deve essere ibrido, vuol dire dati che possono essere su cloud privati e su cloud pubblici, sempre con lo stesso paradigma di sicurezza, certo. È un cloud che deve essere multi-cloud, perché non tutti i dati risiedono sullo stesso cloud, quindi la stessa azienda non deve avere il problema di capire come faccio a integrare dati e come faccio ad avere tutti i dati su un'unica piattaforma cloud. Mm-hmm. Questo è impensabile, toglierebbe e distrarrebbe gli imprenditori e i manager dal loro fine, che è un fine di gestire un'azienda e di avere un vantaggio di business. Quindi serve appunto un'architettura dati che consenta di accedere ai dati dove sono, in modalità aperta, e poterli spostare nella modalità più opportuna e più necessaria al singolo dipendente o alla singola unità di business. Tu prima hai accennato all'intelligenza artificiale. Qual è il ruolo dell'intelligenza artificiale in questo preciso istante, ancor più che non prima, nella gestione del dato? L'intelligenza artificiale possiamo vederla come il fine di un percorso, percorso che parte da appunto una modernizzazione dell'architettura dei dati, la raccolta di dati, quello di cui abbiamo parlato fino adesso, l'organizzazione di questi dati, perché i dati non tutti ne sono necessari, devono essere fruibili, devono essere acceduti in maniera sicura, devono essere utilizzati per delle finalità. Quindi, e devono rispondere alle varie normative e conformità ai vari regolamenti. Quindi c'è tutta un'organizzazione del dato. A partire da una raccolta, da un'organizzazione, si può iniziare a parlare di intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale che non è un mito, non è qualcosa di magico, ma è un cambio di paradigma nella programmazione stessa del software, vuol dire passare dal dare istruzioni a un codice a addestrare un algoritmo su determinati dati. Qual è il vantaggio da un punto di vista business? Sì. Semplicemente vuol dire migliore capacità predittiva per un'azienda, per sì. un imprenditore o per un manager, vuol dire automazione dei processi, consentendo quindi di liberare i dipendenti e gli impiegati di un'azienda da task ripetitive e poterli spostare su attività a maggiore valore, mm-hmm. e poter quindi avere un percorso di ottimizzazione che poi vuol dire vantaggio competitivo sul mercato. Questa è l'intelligenza artificiale. Alessandro, ci fai qualche esempio concreto di applicazione dell'intelligenza artificiale in ambito imprenditoriale e aziendale? Ce ne sono in tutti i domini. Quello che sta succedendo nell'ultimo percorso, io credo che questo momento sarà di ulteriore accelerazione per l'adozione dell'intelligenza artificiale, quello che abbiamo vissuto è stato un passaggio, e stiamo vivendo un passaggio da sperimentazioni in aree specifiche, in aree di nicchia all'interno delle aziende, a un utilizzo sempre più pervasivo, a un utilizzo mm-hmm. sempre più a fianco di ogni singola professione all'interno delle aziende. Ti faccio qualche esempio sì, italiano. Volentieri. Un esempio può essere il quattro ruote. Tutti conosciamo quattro ruote, nella parte professional sì. di quattro ruote. Questa parte dell'azienda si è reinventata come una data driven company. Cosa vuol dire? Si sono resi conto ormai da tempo che il loro principale valore asset erano i dati, sono i dati che possiedono su tutta la filiera delle auto. A questo mm-hmm. punto hanno iniziato a farsi la domanda: come faccio a trasformare questi dati che ho raccolto, che ho organizzato e sono disponibili in nuovo vantaggio competitivo? Hanno inserito qua sopra, in collaborazione con un partner italiano e l'IBM, Watson, la declinazione sì. IBM di intelligenza artificiale, sì. per riconoscere il danno di una macchina a partire da una fotografia. Quindi okay. intelligenza artificiale declinato come visual recognition, sì, riconoscimento di un'immagine. L'immagine viene, grazie ai dati, perché altrimenti non potrebbe funzionare, grazie ai dati che loro hanno, viene catalogata, cioè qual è la parte della macchina che è stata danneggiata. È un paraurti, magari da questo paraurti risalire al modello della macchina, a questo punto risalire esattamente alla parte di ricambio, e immaginiamo che da questa sperimentazione che loro hanno lanciato a disposizione delle compagnie di assicurazione si possa automatizzare, come dicevo prima, l'intera filiera del claim, quindi del danno, la gestione del rimborso, fino ad arrivare a un rimborso automatico, ottimizzando il processo, riducendo tutta una serie di step non necessari. Tipo le perizie. Tipo le perizie, le verifiche, dove nella maggior parte dei danni, parliamo di danni che sono sotto i 1.000 euro, dove il costo di gestione della pratica da parte della compagnia assicurativa è superiore al rimborso stesso. Quindi potendo automatizzare con il riconoscimento di un'immagine un processo di business completamente integrato che arrivi fino a definire qual è la parte di ricambio e poter automaticamente attendere, non ancora, ma certo, attendere, poter autorizzare in maniera automatica il meccanico, la carrozzeria di turno alla riparazione, insomma questo è un efficientamento evidente che possiamo cogliere. Un esempio completamente diverso, sì, nell'ambito proprio del Sole 24 Ore, come servizi offerti ai commercialisti, sì, quindi la parte di soluzioni software a supporto dei commercialisti. Qui si parla di centinaia di migliaia di documenti che vengono resi disponibili e cambiano costantemente, sono non strutturati come dati, per supportare i commercialisti a offrire il loro migliore servizio ai contribuenti. Certo. Ecco, quello che è stato fatto in questo caso, inserendo un'intelligenza artificiale per lavorare su più di 1 milione di documenti, che ripeto sono non strutturati e che evolvono con la normativa costantemente, per poter creare in linguaggio naturale, quindi un supporto per i commercialisti in cui in questa interazione in linguaggio naturale si possa accedere ai documenti, alle correlazioni fra i documenti nel migliore dei modi possibili per offrire un servizio di tipo premium ai clienti dei commercialisti. Alessandro, IBM... Sì, vai, scusami. Ho fatto un esempio completamente diverso per uscire da un terzo dominio dove i dati sono altrettanto importanti, sì, ma non sempre ci si pensa. Il mondo delle infrastrutture stradali, autostradali. Sì. E qui si inserisce invece un progetto con Autostrade per l'Italia, un progetto in cui l'obiettivo finale è quello di inserire intelligenza artificiale per poter riconoscere lo stato di salute delle infrastrutture e poter intervenire in maniera preventiva, quindi con modalità di predittiva. Certo. Ma per arrivare qui bisogna partire dal mettere insieme tutti i dati sulle infrastrutture, la catalogazione, la capacità di correlare le informazioni appunto delle infrastrutture stesse con la conoscenza dei professionisti che lavorano all'interno della società stessa, e quindi si parte ancora una volta dai dati per arrivare a qualcosa in cui l'intelligenza artificiale aumenta la capacità del singolo professionista nello svolgere meglio il proprio lavoro. Alessandro, cosa sta facendo in questo momento IBM in ambito Covid-19? Qual è il suo apporto per la gestione di dati e di informazioni? Covid-19, allora, posso citarti alcune iniziative. Volentieri. Alcune che avvengono a livello globale, diciamo, che coinvolgono l'intera azienda, corporation, e alcune più locali, come sì, IBM Italia. Sì. A livello globale, due direi su tutte. Uno, in accordo con il Dipartimento di Energia degli Stati Uniti, abbiamo messo a disposizione il supercomputer numero uno al mondo, Summit, sì, a disposizione della ricerca. Questo vuol dire che sono stati subito identificati 8.000 composti sui quali ragionare per andare a identificare quali di questi composti possono legarsi con la principale proteina del coronavirus e quindi annientarlo. Quindi in ambito ricerca, di questi 8.000, grazie a una capacità di calcolo unica al mondo, ne sono stati, diciamo, selezionati 77, che poi si sono spostati, come giusto, nell'ambito di ricerca medica, in fase di test sperimentali. Sì. Quindi capacità di calcolo che senza la quale non sarebbe possibile fare queste cose qui, certo, nei tempi con cui vengono fatte. E da qui speriamo che poi diciamo, la ricerca poi vada avanti nella modalità più opportuna. Uh-huh. A partire da questa attività siamo poi entrati in un High Performance Computing Consortium lanciato dalla Casa Bianca, anche qui con altri operatori, sempre con la fine di ricerca, quindi uh-huh, le migliori capacità di calcolo messe a disposizione della ricerca. Spostandoci su un campo completamente diverso di iniziative, abbiamo lanciato proprio in questi giorni la Call for Code 2020. Cos'è la Call for Code? È una, diciamo, chiamata alla comunità di tutti gli sviluppatori in giro per il mondo su un tema di rilevanza mondiale. Il tema per quest'anno era stato deciso essere ovviamente la sostenibilità del clima. A questo tema è stato immediatamente affiancato un secondo tema che ovviamente afferente al Covid-19, con tre specifici domini. Sì. Uno è come comunicare in tempi di crisi, quindi comunicazioni di crisi in un momento di emergenza. Il secondo è quello della formazione a distanza e il terzo è quello della collaborazione tra le comunità locali. Quindi quello che succederà e sta succedendo in questi giorni è la mobilitazione di sviluppatori dappertutto, in giro per il mondo, in cui a partire da degli strumenti tecnologici, delle capacità di intelligenza artificiale, Watson, risorse cloud messe a disposizione degli sviluppatori, parte quella che è una competizione per trovare soluzioni a problemi pratici come quelli che ho, quindi un dominio molto diverso da quello della ricerca, ma più relativo al tema di risoluzione di problematiche pratiche. E in ambito italiano invece cosa state facendo? In ambito italiano due iniziative, sicuramente abbiamo lanciato un'iniziativa di formazione a distanza per le scuole, quindi in collaborazione, in partnership con Cisco, sì, stiamo promuovendo una piattaforma WebEx per abilitare gratuitamente le scuole all'erogazione di corsi a distanza, sì, a livello di anche molto elementari, bene, ma sicuramente sì, medie, liceo. Abbiamo abilitato di fatto più di 100.000 studenti che tutti i giorni fanno lezione, e questo con un mix di, come al solito, tecnologia e persone. La tecnologia, mm-hmm, in questo caso presa da un partner, Cisco, e le persone sono i volontari IBM, quindi ciascuno di noi, a partire da me ovviamente e tutti i colleghi, che per supportare le scuole nel partire con questa piattaforma ed erogare attività. È un'attività molto semplice, siamo partiti da subito nella zona del primo focolaio, in zona nell'Odigiano, e poi abbiamo iniziato a coprire tutte le scuole italiane che... diciamo, offrendoci proattivamente per dare una mano, e questo ovviamente su base gratuita. Certo. Una seconda iniziativa è un'iniziativa che abbiamo fatto invece di donazione per l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, sì, sotto il cappello della Fondazione IBM Italia, quindi prima come IBM e società del gruppo IBM in Italia, dopo con una chiamata ai dipendenti e subito dopo come una chiamata all'ecosistema IBM, a tutti i business partner in giro per l'Italia, per ancora una volta venirci sotto un'unica bandiera, in questo caso una bandiera di beneficenza, dove abbiamo scelto l'ospedale simbolo dell'emergenza che tutti quanti stiamo vivendo per concentrare i nostri sforzi. E infine abbiamo aperto un portale di solidarietà digitale, mm-hmm, abbiamo chiamato così, per mettere a disposizione dell'azienda tutta una serie di strumenti su base gratuita, quindi risorse cloud, strumenti di intelligenza artificiale, capacità software, per aiutare aziende e imprenditori in questo specifico momento. L'indirizzo internet poi lo daremo nel nostro articolo di accompagnamento al podcast e all'intervista, per cui se vorrete, cari ascoltatori, collegarvi, sarà facilissimo trovare queste risorse. Alessandro, un'ultima domanda brevissima prima di chiudere e di salutarci. Abbiamo parlato appunto della tecnologia, però poi alla fine il dato rimane l'elemento principale da trattare. Allora, come bisogna strutturarsi internamente per un'azienda che in questo momento sente la necessità di dover ripartire, vuole provare ad approcciare al data-driven decision making, a questo processo guidato dai dati e dalle informazioni, come bisogna strutturarsi internamente per una lettura e interpretazione corretta del dato, brevemente? Due sono le variabili su cui non tecnologiche su cui soffermarsi. Sì. La prima variabile sono le competenze. Mm-hmm. Oggi le competenze in questo mondo in cui abbiamo parlato di piattaforme aperte, agili, abilitate dal cloud, che tendono all'intelligenza artificiale per creare un vantaggio competitivo dell'azienda, le competenze sono la risorsa scarsa, in particolar modo nel nostro paese. E competenze che sono cross funzionali, non sono più i singoli programmatori, no, bisogna mettere insieme le persone di marketing con i data scientist, con persone di business per avere un effetto, magari per avere un migliore effetto in una campagna di business. Nel mondo dei call center, cognitive caring, come viene chiamato oggi, l'integrazione dell'intelligenza artificiale richiede conoscenza dei vari canali e di comunicazione, ad esempio, di un telco provider, con competenze di marketing, con capacità di conoscere i singoli processi, le singole attività, e esperti di intelligenza artificiale ed esperti di come utilizzare dati, quindi competenze cross-funzionali. Quindi primo punto di attenzione le competenze, quindi ci vuole una grandissima focalizzazione nel dotarsi di competenze nuove che lavoreranno in modalità nuova. Mm-hmm. Qui ci sono tante iniziative per formare nuove competenze sul territorio italiano, ma è da qui che devono ripartire gli imprenditori. Il secondo punto, che è altrettanto fondamentale quando si parla di intelligenza artificiale, è la trasparenza, dove per trasparenza intendo la capacità di poter spiegare in qualsiasi momento a un cliente, a un consumatore o a un dipendente come l'intelligenza artificiale sta operando, quali dati sta utilizzando, con quale algoritmo, in quale modalità sta apprendendo e perché suggerisce un determinato risultato invece che un altro. Poter spiegare in maniera semplice, non tecnologica, tutto questo flusso è fondamentale, altrimenti non ci sarà mai fiducia da parte dei consumatori, da parte dei clienti nei confronti di piattaforme basate sull'intelligenza artificiale. Questo oggi è possibile, è uno dei punti fondamentali su cui noi abbiamo impostato tutta la strategia di intelligenza artificiale, quindi la sicurezza del dato, il poter mantenere la confidenzialità di ciò che è un dato, fino al poter spiegare in qualunque momento, passo dopo passo, come funziona un algoritmo di intelligenza artificiale fino ad arrivare al risultato finale, per evitare che ci sia il tema dibattuto, devo dire, a livello di ricerca, il tema del bias, il tema del pregiudizio, cioè che l'intelligenza artificiale consigli una determinata azione in funzione di un pregiudizio che deriva dal come è stata addestrata. Poter invece spiegare come funzionano le cose aiuta ad eliminare i pregiudizi alla fonte o a correggere eventualmente comportamenti o meccanismi di addestramento di intelligenza artificiale che non siano corretti. Ringraziamo dunque Alessandro La Volpe, Vice President IBM Cloud and Cognitive Italia, che è venuto oggi ai microfoni di Radio Next a parlarci di dati e di intelligenza artificiale. Grazie mille Alessandro. Grazie, buona giornata a tutti. E ricordiamo, per chi avesse piacere di incontrare, seppure virtualmente, Alessandro La Volpe, il team di IBM e tanti esperti sui dati e sull'intelligenza artificiale, il 29 di aprile il Data and AI Summit, che si terrà virtualmente, al quale potete iscrivervi sul sito di IBM. Per oggi è tutto, io ringrazio tutti i nostri ascoltatori per essere stati con noi, vi ricordo il nostro appuntamento, ore 13:45 su Radio 24 con Radio Next, oppure il lunedì mattina con il podcast esteso. Mi raccomando, non mollate neanche per un secondo e neanche per un millimetro, facciamo ripartire l'Italia. Un saluto da Pepe Moder.